GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona domenica, buona giornata da Giampaolo Mauro e Lara Zani. Ci sono novità nella vicenda dei tre ragazzi dispersi a Premariaco durante la piena del fiume Natisone. Le ricerche avrebbero portato poco fa all'individuazione di due corpi. Sentiremo in diretta i particolari dal nostro inviato. 2 giugno, festa della Repubblica, cerimonia Re di Puglia nei capoluoghi, al Sacrario l'intervento del ministro per i rapporti con il Parlamento, che ha detto è la festa di tutti gli italiani al di là dell'appartenenza politica. Tra gli appuntamenti più attesi di oggi c'è il concerto allo Stadio Rocco, c'è Ultimo sul palco nella data zero del suo tour. Le 12:16, dunque, a Premariaco una svolta nelle ricerche dei tre giovani dispersi durante la piena del Natisone. I soccorritori anche questa mattina insistevano nel tratto già scandagliato a lungo ieri, e poco fa sono stati individuati 2 corpi. Intanto la procura di Udine ha aperto un fascicolo sulla vicenda, per il momento senza ipotesi di reato né indagati. Ma subito la linea all'inviato Sebastiano Franco. Buongiorno, esatto Giampaolo, ci troviamo sul Ponte Leproso, dove già da questa mattina insistevano le ricerche dei vigili del fuoco con i sommozzatori, e proprio sull'argine nei pressi del Ponte Leproso sarebbero stati individuati i 2 corpi, 2 corpi delle ragazze, Patrizia 20 anni e Bianca 23, mentre ancora non sarebbe stato individuato il corpo di Christian 25 anni. Questa mattina, poco fa, circa una ventina di minuti fa, è stata chiusa la strada del ponte dalla parte della protezione civile, sono stati fatti sgombrare tutti, allora siamo scesi e quindi abbiamo visto passare l'elicottero che scandagliava il fiume a bassissima quota, l'elicottero della protezione civile, e l'abbiamo visto fermarsi un centinaio di metri dopo il ponte verso valle, in direzione a valle. Sarebbero stati individuati i 2 corpi, lo ripetiamo, ma ancora non abbiamo visto il recupero, stiamo attendendo novità a immagini del ponte, che è stato chiuso mentre questa mattina era libera la circolazione, anche con l'aiuto di un drone, perché sulla strada provinciale è stato visto un drone che probabilmente avrebbe forse individuato i 2 corpi. Ci troviamo ancora qui mentre stanno facendo sgomberare tutti dal ponte, ripeto, sarebbero stati individuati i 2 corpi. Per ulteriori novità vi rimando al telegiornale delle 14. È tutto, a voi. Grazie Sebastiano Franco, proseguiamo con la cronaca nera. Un uomo di circa 40 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Monfalcone in seguito a una caduta dalle scale. L'infortunio, dal quale non si conosce ancora la dinamica, è avvenuto poco dopo le 23 di ieri, in un locale di via Trieste, il Taverna Caffè. Il 2 giugno, festa della Repubblica, la cerimonia principale in regione questa mattina al Sacrario di Re di Puglia, il servizio. 78 anni fa, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia sceglieva la Repubblica in un referendum che archiviava definitivamente la monarchia di Casa Savoia, evento che come ogni anno si celebra anche al Sacrario di Re di Puglia, dove riposano le spoglie di oltre 100.000 soldati italiani morti nella Grande Guerra. A rappresentare il governo è il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani, che ha partecipato alla deposizione della corona dell'oro ai caduti presso la tomba del Duca d'Aosta. Nel suo discorso ufficiale ha fatto riferimento al 2 giugno come la festa di tutti gli italiani al di là di come votano, al di là dell'appartenenza politica. Ha parlato di fronte ai militari delle varie forze armate, schierati per l'occasione accanto a lui, altri rappresentanti istituzionali e parlamentari di diversi orientamenti politici. In prima fila, Coriacea, la partigiana della Brigata Osoppo Pala del Din, centenaria, a lei, che è medaglia d'oro al valor militare, il compito di leggere la motivazione per la quale la stessa onorificenza fu concessa al milite ignoto. Il sole e il caldo hanno messo in difficoltà qualche militare schierato sul piazzale del Sacrario, necessario l'intervento del personale sanitario che ha soccorso alcune soldate colte da leggero malore dovuto a disidratazione. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Altre cerimonie si sono svolte in tutti i capoluoghi, anche con la consegna delle benemerenze ai cittadini che si sono distinti in vari campi. A Gorizia la consegna avverrà nel pomeriggio alle 18 nei giardini della prefettura. A Trieste è annunciata per le 15 da Piazzale Europa, davanti al corpo centrale dell'università, un corteo per la festa della Controrepubblica a supporto della resistenza palestinese contro quelle che vengono definite le politiche genocidarie di Israele, il silenzio e la complicità dello Stato italiano, in continuità a questo con le proteste studentesche dei giorni scorsi. I manifestanti, secondo quanto indicato, si muoveranno lungo via Fabio Severo, Piazza Dalmazia, via Ghega e Piazza Libertà, con arrivo in Largo Santos previsto alle 19. Linea d'ombra e Mediterranea Saving Humans hanno organizzato per oggi a Trieste un presidio davanti all'ex mercato coperto di via Flavio Gioia. L'appuntamento è alle 17.30 e si propone di sottolineare la necessità di apertura di questo spazio come luogo di accoglienza a bassa soglia per richiedenti asilo e persone in transito che attualmente trovano il Silos come unica soluzione. Uno sguardo alla situazione del tempo: abbiamo cielo sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna, le temperature registrate alle 11 a Trieste. 21 gradi, il mare poco mosso con temperatura anch'esso di 21 gradi, a Gorizia, a Pordenone e a Udine ci sono 23 gradi, nell'area montana a Tolmezzo 21, a Tarvisio e a Forni di Sopra 18, a Piancavallo 13 gradi, a Sappada 7, sullo Zoncolan e sull'Ussari 11, sulla costa a Lignano e a Grado 23 con temperatura del mare 21 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi. Sulla costa cielo poco nuvoloso, sulla pianura e sui monti variabile. Nel pomeriggio saranno probabili rovesci sparsi e qualche temporale, venti di brezza. Domani cielo variabile, probabili rovesci sparsi con piogge in genere deboli o localmente moderate. Probabili anche temporali e forse qualche isolato temporale più forte. Cresce il turismo a Gorizia. Nel 2023 le presenze nella sola città sono aumentate del 12,8%. Dai dati raccolti da Promo Turismo Friuli Venezia Giulia emerge come si sia registrata una crescita dell'8,7% da parte degli italiani, che rappresentano ancora la fetta maggioritaria dei turisti che soggiornano in città. L'aumento più significativo è però quello degli stranieri, cresciuti del 24,7%, un numero che fa ben sperare anche nell'ottica di Go 2025. Il trend positivo è proseguito anche nei primi tre mesi del 2024, da gennaio a marzo, infatti le presenze turistiche sono cresciute complessivamente del 36,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La pagina della cultura e degli spettacoli. Oggi, per celebrare la festa della Repubblica, musei e parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. A Scodovacca di Cervignano, a Villa Chiozza, si apre la rassegna Palchi nei Parchi. Il primo ospite alle 18.30 è Gene Gnocchi. A Malborghetto comincia invece il Festival Risonanze. Alle 18, nella Chiesa della Visitazione, il concerto inaugurale della Friuli Venezia Giulia Orchestra con il flautista Massimo Mercelli. A Tolmezzo il Museo Gortani ospita alle 17.30 Fiore di Roccia, una lettura in musica ispirata al romanzo di Ilaria Tutti, protagoniste le portatrici carniche durante la Prima Guerra Mondiale. E Gemona celebra la leggenda centenaria di Ottavio Bottecchia, due volte vincitore del Tour de France. Alle 18.30 si inaugura in Piazza Garibaldi un percorso espositivo dedicato al campione di ciclismo, mentre alle 20.30 al Cinema Sociale sarà proiettato il documentario El Furlan de Ferro di Franco Bortuzzo, prodotto da Rai Sport. E ora la musica. Stasera allo Stadio Rocco di Trieste il concerto del cantautore romano Ultimo, uno dei nomi più gettonati delle ultime stagioni. È la data zero del nuovo tour, che vede già numerose date sold out. Le lunghe code con centinaia di fan ordinatissimi che si scrivono sulla mano il numero per poter avere un ordine di accesso quando alle 17 circa apriranno i cancelli. È il giorno del concerto di Ultimo allo Stadio Rocco di Trieste. Oltre 20.000 i biglietti venduti per il concerto del cantautore romano, metà dei quali fuori regione con qualche centinaio dall'estero. I fan già in fila sono arrivati di prima mattina, qualcuno addirittura ieri ha dormito in una tendina da campeggio, e rappresentano lo zoccolo duro di chi segue Ultimo in questa prima data ufficiale, ufficialmente denominata zero, del nuovo tour. La zona attorno allo stadio è già di fatto interdetta al traffico. Per evitare ingorghi pre e post concerto è stato messo in atto un piano di bus navette dal centro, la via dell'Istria e da Montedoro, dove chi arriva da fuori può lasciare la macchina. Ancora qualche migliaio i biglietti disponibili, anche a prezzi più bassi, ma gli organizzatori sono molto soddisfatti del risultato ottenuto al secondo concerto in due anni, dopo quello dell'anno scorso di Maneskin, che aveva accolto quasi 26.000 spettatori. Ultimo, una delle voci più amate dai ventenni, è in città da una settimana, ha provveduto a regalare qualche tagliando ai bambini dei ricreatori per ringraziarli dell'accoglienza ricevuta durante i primi giorni di soggiorno a Trieste. La prossima settimana si replica, anche se con altro target, sempre a Rocco. Ci sarà Max Pezzali. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport calcio, la primavera dell'Udinese torna in A1 nell'elite delle formazioni giovanili. La squadra bianconera infatti ha vinto 2-0 a Venezia la finale promozione contro la formazione di casa. Le reti sono state segnate nella ripresa da Pejcic e da Boni, entrambi con tiri da fuori area. La primavera dell'Udinese è allenata da Igor Bubnic. La Pallamano Trieste è retrocessa in A Silver, è la prima volta che accade sul campo in 54 anni di storia del club, il più scudettato d'Italia. In precedenza era stata la società biancorossa a rinunciare all'iscrizione nella massima serie per difficoltà finanziarie. Quest'anno sono state superate dalle traversie tecniche che hanno trascinato la Pallamano Trieste ai play-out, dopo una stagione di affannose e vane rincorse, fino a dover giocare la partita decisiva per la salvezza sul campo del Cingoli. E dopo aver perso il match casalingo, Trieste ha perso anche in trasferta, 34-28. Nella massima serie restano dunque i marchigiani. Per la società triestina si apre ora una fase di grande incertezza. Vi ricordiamo la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione del giornale: il ritrovamento nei pressi di Premariaco di due corpi dei ragazzi dispersi durante la piena del Natisone venerdì. Si tratterebbe dei corpi delle due ragazze. Per aggiornamenti vi rimandiamo alla edizione delle 14 del telegiornale, alla prossima edizione del giornale radio regionale alle 18:30. Per ora è tutto, hanno realizzato questa edizione del GR Lara Zani e Giampaolo Mauro. Per il coordinamento tecnico grazie a Vassi, a Chris Mancic e a Eugenio Giuffrida. Sono le 12:27, la linea di nuovo a Radio 1. A tutti voi grazie per l'ascolto e ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.